Buonasera a tutte e a tutti, eccoci ritrovati a una nuova puntata di Tabula Rasa, sempre su Radio Onda Rossa. Daremo via quindi alla nuova stagione della nostra rubrica che legge libri per voi e proprio per questa occasione presenteremo questo nuovo libro uscito da poche settimane con cui parleremo proprio con l'autrice Gaia Cenciarelli. Il titolo del libro è Domani interrogo ed è edito da Marsilio. Buonasera Gaia e grazie. Buonasera, grazie a voi. Allora, intanto ci tengo a dire appunto che il libro mi ha subito suscitato un sacco di interesse sia per la tematica che un pochino per quella che era il luogo dove questa si svolge e non sono rimasto affatto deluso. Questo libro parla appunto di una quinta. Alle prese con la maturità, una quinta di un istituto alla periferia di Roma, che chiaramente, come un pochino tutte quante le quinte, in realtà, come tutti quanti i ragazzi e le ragazze, studenti e studentesse, presentano tantissime sfaccettature che, questo a mio avviso, molto spesso vengono banalizzate in maniera particolare quando si tratta di luoghi come appunto quelli della periferia, sia in quanto luoghi e anche di chi li abita. Parto subito con una considerazione. Una delle parole che mi è subito venuta in mente leggendo questo libro è la parola complessità. È una parola che è presente proprio anche all'interno del libro stesso e c'è proprio un passaggio che mi ha particolarmente colpito quando appunto il libro, questo libro non l'ho detto prima, chiaramente vede protagonista, oltre alla classe, l'insegnante d'inglese di questi ragazzi e ragazze. E in una lezione in cui l'insegnante presenta Joyce, l'insegnante è molto, diciamo, è molto impaurita per loro. Mettendoli subito in guardia sul fatto che appunto sarà un autore sicuramente non semplice da affrontare, in quanto molto complesso. E una cosa che mi ha molto colpito è stata la risposta che ha avuto in particolare da due alunne che in qualche modo le hanno fatto capire come in realtà non era affatto la complessità che li spaventasse, ma anzi in qualche modo quel tipo di complessità li rendeva e le rendeva molto attente, molto partecipi. E quindi ti volevo chiedere, come ti spieghi in qualche modo questo interesse per la complessità, che in qualche modo paradossalmente potrebbe spaventare? E ti pongo già subito un'altra domanda. Siccome nel libro si parla anche della difficoltà di intercettare ragazzi e ragazze che leggono, ti chiedo se magari, soprattutto ai tempi nostri, in qualche modo la mancanza di complessità anche all'interno dei libri può far sì che in qualche modo potenziali lettori e lettrici vengano allontanati in questo senso. Beh, belle, bellissime domande, ti ringrazio. Dunque, parto dalla prima per quanto riguarda la complessità che io, che la protagonista e anche io, perché mi ci sono trovata in una situazione del genere. Io credo che la professoressa, pensando che questi ragazzi potessero non capire Joyce perché era troppo complesso, li ha un po' sottovalutati. E di questa cosa si è molto vergognata dopo, perché non è detto che dei ragazzi assolutamente disinteressati allo studio perché hanno altri obiettivi, perché la loro vita principale si svolge fuori dalla scuola. Ecco, non è detto che questo genere di ragazzi non ami la complessità. E io credo che la professoressa, dopo essersi resa conto che invece questi ragazzi l'avevano perfettamente inquadrato, Joyce, c'era stato bisogno di semplificarglielo per farglielo arrivare, credo che la professoressa si sia resa conto in realtà che quello che allontana i ragazzi non è la complessità, non sono i contenuti, è la banalità. Anzi, forse è proprio la semplificazione della complessità, perché i ragazzi, ma in generale, non sto facendo distinzioni perché i ragazzi sono uguali ovunque, anche se magari parlano un italiano diverso, i ragazzi sono sempre pronti invece ad accettare le sfide, a mettersi in discussione, a mettersi in gioco, soprattutto quando dall'altra parte c'è l'autorità, ma è proprio la loro natura di adolescenti, no? Allora vediamo fino a dove arrivi, vediamo fino a dove mi vuoi far arrivare, vediamo se ci riesco. Quindi diventa anche un corpo a corpo interessante da seguire per loro. E, per quanto riguarda, quindi appunto, ribadisco, è la banalità quella che li allontana. E anche il modo banale di veicolare dei contenuti complessi, perché se ne accorgono tutti, se ne accorgono immediatamente e la cosa li urta profondamente. E, per quanto riguarda appunto questa questione purtroppo dolorosa della lettura per noi insegnanti e per noi che amiamo i libri, direi che sì, una parte sì, hai ragione quando dici che forse la banalità di certi libri tende a respingere i ragazzi. Però secondo me in questo caso bisogna fare un discorso un pochino più ampio, cioè si è proprio persa l'educazione alla lettura. È vero che forse si propongono ai ragazzi dei libri che per loro non sono interessanti, questo sì. Perché io li vedo, ecco, io insegno inglese, quindi non sono, cioè ho tentato una volta di dar da leggere Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, dove mi hanno subissato vabbè, lasciamo perdere perché io l'ho letto, quindi il libro il libro è meraviglioso, per me è uno dei libri della vita, però bisogna anche intercettare i gusti di questi ragazzi, no? Senza abbassare il livello. Devo dire che non voglio assolutamente risultare passatista, perché io internet lo uso, ne faccio un uso massiccio, lo amo, mi piace, senza internet sarei persa, però è vero che un pochino questo mondo virtuale ha sostituito la lettura, cioè il raccoglimento con se stessi, nel modo, stando su internet i ragazzi sono perennemente connessi, è questa la verità, e quindi creano una rete di interscambio continua. Leggere significa stare con se stessi, per loro è noia, perché questa è la risposta che mi sento dare più spesso, per loro è noia, obbligo, quindi costrizione, e forse in fondo è anche un po' di disorientamento nel restare da soli. Chiaro, grazie. Grazie per la risposta, anzi scusami subito se sono uscito un pochino, diciamo, fuori da quello che era la tematica del libro, però... No, ma la tematica del libro è questa. È questa, sì, no, certo. Poi c'è un libro sulla scuola, quindi esatto, la tematica è proprio esatto. E, sempre riguardo appunto alla questione che poi la professoressa appunto si interroga e si chiede molte cose che poi le vengono proprio conoscendo questi ragazzi e queste ragazze, e lei continua a chiedersi come mai ci sono alcuni autori, autrici che riescono a entrare, diciamo, nel cuore dei studenti e studentesse, mentre altri è proprio difficile da far digerire. E questa... Così, mentre leggevo, ho pensato di chiederti proprio questo, cioè tu ti sei data una risposta anche seguendo e chiaramente provando a interpretare quelle che sono state le loro considerazioni sul perché, o anche per te rimane ancora una questione abbastanza, un grande punto interrogativo? Guarda, sì, no, ma io me lo chiedo ogni anno in realtà, quando ricomincio da capo. Io penso esattamente che sia quello che abbiamo detto prima. L'attualità di certi autori risuona dentro di loro. Quando la professoressa del libro spiega i poeti romantici, li spiega con grande amore, con grande trasporto, cercando appunto di contestualizzarli, anche di renderglieli interessanti, lei lo sa perché li guarda in faccia e vede immediatamente che il pubblico non reagisce, non recepisce, cioè li sta subendo questi poeti romantici, la prima, la seconda generazione di poeti romantici, eccetera. Insomma, è una cosa che si deve fare, sa da fare e si fa. Mentre invece quando entriamo nel Novecento, lì la questione si fa più interessante per loro, si fa più coinvolgente, avvincente, cioè questi autori cominciano a parlare alla loro testa, alla loro pancia, cioè si riconoscono anche in tante tematiche, perché dal Novecento in poi la letteratura, ma non solo la letteratura, è cambiata. E io credo che ci sia anche una sorta di identificazione, di proiezione, no? In questa rivoluzione letteraria, con quella che sarà la rivoluzione della loro vita, perché gli adolescenti poi cominceranno a crescere, ad evolversi, ad avere nuovi punti fermi, nuovi punti di riferimento. Credo che quando la letteratura prende corpo ed è un corpo che gli somiglia, loro si fanno più attenti. Ecco. Per esempio, ecco, con Joyce, con Orwell, in alcuni casi con Virginia Woolf, non succede sempre. Virginia Woolf è molto più amata dalle ragazze che dai ragazzi. Però vedo che il Novecento su di loro ha una presa molto maggiore. Come se fosse, diciamo, qualcosa che gli È più appartiene un po' attuale, più sì, attuale. gli appartiene, anche la lingua è più simile perché Certo. i poeti romantici appunto scrivono in versi e purtroppo per loro la poesia è un linguaggio molto distante. E una domanda. La professoressa all'interno del libro, appunto, come detto in precedenza, in qualche modo la professoressa nell'anno scolastico instaura con questi ragazzi un rapporto che poi va anche oltre quello che è il rapporto professoressa, studenti e studentesse, e in qualche modo quindi si instaura proprio questo legame. Quindi i ragazzi, in qualche modo, è un dare avere, quindi in qualche modo si autoalimentano, si aiutano a vicenda in qualche modo, ecco. Però nonostante questo, in diversi passaggi del libro la professoressa ritiene in qualche modo di non essere una brava insegnante. Ero curioso di capire come mai avesse questa percezione, nonostante sia molto evidente, e non solo evidente a chi legge, ma anche lei stessa, diciamo, da parte dei ragazzi, riceve chiaramente un amore proprio fuori da ogni limite. C'è anche la parola limite all'interno del libro. Eh sì, si parla molto di limiti, di confini, di Sì. sconfinamenti, eccetera. Perché? Perché ha questo profondissimo senso di inadeguatezza al mestiere e quindi si rende conto che questo continuo andare oltre, no? Nelle vite private degli studenti, entrare a volte a gamba tesa nelle loro questioni private, personali, che non sono, a volte non sono nemmeno troppo così cristalline, non fa di lei un insegnante, cioè gli insegnanti, per quanto appunto non conosco un insegnante che non la prenda sul personale, tanto per tornare al decalogo del mio libro, gli insegnanti in gamba, quelli che hanno capito, quelli che sanno, quelli con grande esperienza, quelli che hanno fatto tesoro dell'esperienza, devono mettere dei limiti, perché altrimenti diventa una follia, ecco, diventa veramente una follia. Lei non è in grado di fare questa, lei non è in grado di tracciare questo confine, non è in grado, più volte si chiede se lo sarà mai in grado, penso di poter anticipare alla professoressa che la risposta è no, No, no, non è in grado, immagino. continua a non essere in grado, credo, ma così lo dico facendo un'ipotesi, non conoscendo la protagonista. E per questo lei si sente un po' la pecora nera degli insegnanti, quella che tutto sommato non ha mai niente di brutto da dire di questi ragazzi, perché poi gli vuole troppo bene. Questo, ecco, è questa cosa che la frega. Dice, vabbè, ma io sono tenuta a valutare il rendimento, ma non ce la fa, perché poi non Una sorta di riesce. amore incondizionato, Sì, non infatti. riesce a lasciare indietro nessuno, anche quelli che non vanno bene, anche quelli che proprio dichiaratamente glielo dicono: guarda, a me dell'inglese non me ne frega niente, dandole del tu, perché poi il contesto era un po' quello, un po' ruspante, ma anche molto vero e molto, molto vivo. E quindi ecco, il senso di inadeguatezza dell'insegnante, io lo capisco. Capisco molto bene. Chiaro. E sempre riguardo alla questione appunto dei limiti dell'andare fuori, proprio c'è un passaggio che mi ha fatto molto riflettere. Tra l'altro è stata una pura coincidenza, perché nel mentre ho visto un film che è al cinema che è Margini, e dove c'è il passaggio all'interno del film dove c'è appunto questa band punk, dove poi cantano una canzone di Massimo Ranieri alla fine. Questo non voglio spoilerare. E mi è venuto tantissimo in mente un passaggio del libro dove la professoressa rimane chiaramente sconvolta perché i ragazzi si ritrovano tutti insieme con lei, chiaramente, a cantare notte prima Notte del... prima degli esami, notte Esatto. prima degli E ho trovato questa, ho fatto questa connessione, ho detto, vedi, e anche tornando alla questione della complessità, cioè ragazzi che comunque sicuramente hanno nelle loro preferenze altri generi, ma non c'è dubbio, non c'è guarda dubbio. proprio. Poi le dicono, beh, ma notte degli esami, notte prima degli esami si deve cantare, cioè una canzone che anche se io ascolto trap, Sì, sì, io sì, sì. sta roba la devo cantare. Ma che fai? Non la canti il giorno prima? Esatto, Insomma, quindi... professore, ma insomma, dai. Esatto. E lei rimane completamente, cioè, le cade Esatto. proprio la mascella per terra perché dice: ma come voi cantate notte prima degli esami? Io se vi dico che quando ero ragazzina ascoltavo Claudio Baglioni, mi ridete dietro da qua all'eternità, e però cantate notte prima degli esami. Beh, ma notte prima degli esami è un rito. E quindi il rito va rispettato, ma non è scaramanzia, è proprio un riconoscersi, è proprio una Certo. formula identitaria, è qualcosa a cui loro non sanno rinunciare perché loro in quel momento fanno parte di quel rito che è l'esame di Stato e quindi quel rito prevede notte prima degli esami. Poi non la canteranno mai più in tutta la loro vita, però Chiaramente, certo, però in quel momento è andava così, fatto. eh sì, va fatto, va fatto. Bene, allora io prima di salutarti ti faccio, diciamo, quella che è l'ultima domanda, un pochino la nostra domanda di rito, e ti volevo chiedere se nell'ultimo periodo hai letto o stai leggendo un libro che ti ha particolarmente colpita e che vorresti consigliare alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, sono Qualsiasi tanti, genere, sì, qualsiasi... sono tanti, sono tanti, ne cito. Guarda, me ne vengono in mente due che ho particolarmente amato nell'ultimo periodo. Allora, uno pubblicato da Feltrinelli, l'autore è Enrico Terrinoni, che è anche un grandissimo traduttore, è esperto di letteratura irlandese ed è su tutti i vivi e i morti. Ovviamente. Stiamo parlando di Joyce, ma di Joyce se ne parla in un modo sublime, molto molto originale, quindi ne consiglio la lettura. E poi consiglio Le distrazioni di Federica De Paolis, pubblicato da HarperCollins. È un romanzo su, anche questo è un romanzo sui confini, sui limiti e sul vuoto. E sull'imperfezione dell'essere umano, scritto in un modo veramente mirabile. Va benissimo, io ti ringrazio per questi consigli che ovviamente mi sono già Grazie a te. appuntato perché sono molto curioso e quindi intanto grazie appunto anche per la tua disponibilità Grazie, grazie a e voi. a presto allora. Grazie. A presto, grazie mille. Ciao. Ciao.